farlo girare di più. Yeah, yeah. Allora lasciami guardare, baby, il desiderio che prende piede. Io non so, lady, fallo girare, baby, agli occhi di chi non vede. Non puoi portare, ma fallo groovare di più. Fallo salire di più, fallo cantare di più. Fallo girare di più, fallo groovare di più. Fallo salire di più, fallo cantare di più. Fallo girare di più. Oh yeah. Fu tutto così strano quando venisti a prendermi. Tutto normale per me. Così sano quando mi accinsi a perdermi, morendo e nascendo con te di nuovo ancora, lady. Allora lasciami guardare, baby, il desiderio che prende piede. Io non so, lady, fallo girare, baby, agli occhi di chi non vede. Non puoi portare, ma fallo groovare di più. Fallo salire di più, fallo cantare di più. Fallo girare di più, fallo groovare di più. Fallo salire di più, fallo cantare di più. Fallo girare di più. Fallo salire di più, fallo cantare di più, fallo girare di più, fallo groovare di più. Fallo salire di più, fallo cantare di più, fallo girare di più.